sei qui vista anche tu, chissà se uscirà il tuo terno, chissà, più o meno umanità, più o meno libertà, chi vola e chi no, chi vorrebbe meno sinceri, futuri robot, no, mentirsi no, ferirsi no, tradirsi no, se poi scopri che il male tuo è dentro di te, si potesse chiamare amore la rabbia che ho dentro me, potessi ricominciare, ricomincerei con te. Ricominciamo. Ricominciamo. Ho un'anima in più, più vera di più. Se resti con me, tornerò ad essere un re. Ricominciamo. No, fermarsi no, fuggire no, perdersi no. Se oscurassimo i sentimenti, sarebbe notte poi, pianeti spenti, stelle cadenti. Fa che non sia così.